Che sinemo combattimo, che sta guerra le pulimo. Troppa gente che soffre e noi ci tedimo. I governi che si riuniscono se ne fottono i picca dell'avvenire. Interessi, gli interessi, i progetti loro se ne hanno fuggire. Stanno a levare l'amore, sofferenza nel cuore. Da questo non voglio che sento, continuo sempre con l'esempio. E senti che ce ne penso quando te canto mo' sta musica. Senti mo'. Basta queste guerre, non voglio un esempio. Più i prove le forze, lo tra poveri avversari. Azione ostilità, le malanime e gli scordi. E guerre fra critici diverse tendenze, chiaro moi. Guerre dei nervi, guerre pure psicologiche. Condotte mediante una sistematica propaganda. Offensaro comportamento della popolazione. Dell'esercito un nemico che diventa più un nemico, chiaro moi. Guerre doganali, guerre pure delle tariffe. Le levare dai doganali hanno scopo e danneggiare. Lo commercio hanno razione, lotta contesa ragione sentimento. Guerra totale quando c'è odio dei diamenti. Guerra santa condotta per motivi religiosi. Guerre sulle conquiste, pure i petroli. Normi regolanti, l'uso della violenza statuite dalle convenzioni collettive. Che solo la musica sa dare un po' di calore, a riscaldare il cuore, a cambiare ogni popolo della cultura, ogni popolo del valore. Ogni bagnone della terra vuole sempre tanto amore. La musica che unisce, che dai tanto valore. Questa è ma la faccio come esprime, come da tu senso e libertà che a tutti quanti volimo. Che la musica armonia è puro come una poesia, ma non faccio una melodia che mette in sintonia. Che solo la musica sa